ragazzi giù del bar pensano di essere noi 20 anni fa. Intorno al tavolino, ispirati dal Frascati, cantano vecchie teorie sul mondo, mentre la morte vicino li porta da bere. Quanta ne è passata d'acqua sotto il ponte, e noi così, mentre tantarei rimaniamo ad aspettare, sperando che niente debba ancora cambiare, mentre la morte vicino ci offre da bere. Roma sognata in una sera di quasi estate, Roma sparita e ritrovata, Roma, mamma Roma, dà un bacio ai suoi figli e gli regala la notte, mentre la morte vicino ci canta lo stornello. Roma, mamma Roma, dovrai sopportarci ancora per molto. È un quadro storto appeso al muro di qualche crudele manierista, quei vecchi lì sull'uscio dell'osteria, sotto l'ombra del Frascati cantano vecchi stornelli a dispetto, mentre la morte vicino gli porta il conto. Roma sospesa sopra la notte, stupenda, antica, Roma che brucia, Roma che soffre. Roma, mamma Roma, la vende per poco e ti ammazza per niente, ma che ne sanno la gente che guarda e non te vede. Roma, mamma Roma, quanto sei bella a prima sera.